Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800. Mi sono dimenticato il numero. 800 24 00 24. La memoria è veramente in noi vecchi, vecchissimi. È turpe proprio, la memoria è turpe. 800 24 00 24. Discutiamo del fascismo, dell'antifascismo del 25 aprile. Dove deve andare Berlusconi? Berlusconi sta scappando da tutte le parti. C'è chi dice che celebrerà il 25 aprile a Onna. Il paesino abruzzese travolto in modo devastante dal terremoto recente, dove avvenne una strage di partigiani. C'è chi dice che invece andrà in un cimitero militare americano e poi porterà una corona all'altare della patria e quindi non si mescolerà a marce come gli ha chiesto Franceschini, che lo vorrebbe con lui a Milano per la grande marcia convocata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, AMPI. Poi c'è chi dice che invece andrà alla marcia, c'è chi gli consiglia come Giampaolo Panza: attento cavaliere, non fare a Milano il tuo 25 aprile. Panza racconta la bruttezza, diciamo faziosa, di alcuni famosi 25 aprile milanesi in cui sono stati spernacchiati, fischiati, qualche volta anche malmenati, persone degnissime, dal sindacalista Pezzotta al padre partigiano combattente nella Brigata Franchi di Letizia Moratti. Dice: no, quello è un posto di risse, di fazioni, finisce tutto a schifio. E questo è il consiglio di Panza. Altri invece dicono: bello, cade il muro di Berlino, perché così Berlusconi diventa anche Berlusconi partigiano, Berlusconi bella ciao. Ecco, una grande novità che ricomporrebbe il tessuto civile della nazione, ci consentirebbe perfino di inaugurare una stagione di riforme. Sono chiacchiere, ma cosa volete che si facciano se non chiacchiere alla radio? E quindi noi queste chiacchiere qui siamo tenuti a fare. Però forse si può dire qualcosa di diverso da quello che abbiamo letto sui giornali, da quello che sentiamo girare nell'etere. E questo diverso a me sembra questo, lo dico rapidamente, poi ne discutiamo con ospiti illustri. C'era una volta la Repubblica antifascista, aveva una sua Costituzione, i partiti che l'avevano firmata, fatta, che erano nati nel CLN, che erano nati nella guerra di liberazione, che erano nati quando le truppe alleate liberavano l'Italia con il concorso di una parte piccola, minoritaria, ma valorosa di italiani che si schierarono dalla loro parte. Valorosi erano anche i giovani che combattevano dalla parte avversa per la continuità, diciamo, delle scelte del regime mussoliniano, però erano valorosi che stavano con i nazisti, quindi insomma, e poi hanno perso ed è dignitoso e bello, come ha detto Campi, non prendersi le rivincite postume. C'è una bellezza anche nella sconfitta, c'è un carattere morale, una tempra morale anche nella sconfitta. Le sconfitte bisogna accettarle, non si può, come ogni tanto la Russa sembra volere, avere la rivincita postuma. La Russa è il ministro della difesa, ex Alleanza Nazionale, ora PDL. Va bene, comunque c'era una volta questa Italia qui, l'abbiamo mandata in galera dicendo che erano tutti mafiosi, corrotti, truffatori, che non avevano la dignità necessaria per continuare a reggere la Repubblica. Non esistono più quei partiti, non esiste più la nomenclatura, gli uomini magari sì, ma non esistono più i nomi, non c'è più niente, il Partito Socialista di Pertini non c'è più, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana, niente, tutto sepolto. Ma se un paese fa un'operazione di questo genere, attraverso la sua magistratura, la sua stampa più o meno libera, i suoi intellettuali e tutti lì a fare la maglia come le tricoteuse sotto il patibolo, se manda all'aria una classe dirigente e si ritrova da 15 anni giustamente con Berlusconi, tutte le anomalie eccetera, belle, brutte, detestabili, amabili eccetera, e non ci sono più i vecchi partiti, non c'è più la vecchia impianto, diciamo, di classe dirigente che ha fatto la Costituzione. Ma in nome di che cosa si chiede l'unità intorno al 25 aprile? In nome di che cosa, mi chiedo? Ecco, e ce lo chiederemo magari con tanti altri argomenti che possono essere addotti nel corso della trasmissione di oggi. Bene, da Milano, 800 24 00 24, siamo a Radio Elefante, parliamo con l'Elefante. Da Milano Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere della Sera, ai nostri microfoni. A Roma in studio Piero Sansonetti, direttore del quotidiano L'Altro, un quotidiano che sta per nascere e che il 25 aprile avrà un suo secondo numero zero. I numeri zero sono i numeri, diciamo, piloti, volta, con un articolo di Gianfranco Fini, presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionale dell'MSI, il pupillo di Almirante, sui valori della liberazione, dell'antifascismo del 25 aprile, che è il tema di questa trasmissione. Poi abbiamo Alessandro Campi al microfono, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia e direttore scientifico della Fondazione Finiana Fare Futuro. E tra poco, alle 9.30, arriverà anche Gianluigi Paragone, vice direttore di Libero e, come dire, opinionista provocatore a ruota libera. Bene, Battista, vuole cominciare lei? Io penso che, insomma, se i partiti che hanno fatto la Costituzione non ci sono più e sono stati sbaragliati nel modo che sappiamo all'inizio degli anni 90, se l'Italia è completamente cambiata, sì, il 25 aprile può continuare ad essere celebrato tranquillamente, formalmente, anche con partecipazione sostanziale, sentimentale, emozionale di tutti coloro che si sentono coinvolti da questa data. Io per esempio sono fra questi. Però è assurdo fare un appello al rispetto del 25 aprile quando è stato buttato a mare la sua eredità storica, cioè i partiti che hanno fatto la Costituzione. Sono d'accordo, aggiungo questo, che questa discussione, appunto, alla fine della prima Repubblica fondata sui partiti che hanno fatto l'esistenza, che hanno scritto la Costituzione, eccetera, appunto è avvenuta 15 anni fa. Questa discussione sul 25 aprile ce la portiamo presso da 15 anni e sì. Io devo dire sinceramente che ne sento un po' la saturazione, la stanchezza, l'esaurimento e a volte anche la caricatura, cioè sembra che stia diventando questa storia del vado o non vado il 25 aprile, il set di un film di Nanni Moretti, mi si nota di più se vado alla marcia oppure se vado all'altare della patria e così via. Io trovo che questa marcia possa essere disertata, se uno va a celebrare il 25 aprile all'altare della patria oppure al cimitero degli americani oppure a Onna, come ha detto lei, vale lo stesso, non è che c'è un luogo consacrato che è la manifestazione milanese del 25 aprile, sono accadute poi tra l'altro negli anni scorsi non soltanto gli episodi che lei ha raccontato, Pezzotta, il padre della Moratti, è capitato anche Fischi e Uova Marce contro le bandiere, la Stella di Davide, contro la Brigata Ebraica, insomma sono successe cose abbastanza brutte naturalmente di minoranze. Sì, e questo è il secondo aspetto. Il primo è che uno liquida la Repubblica nata sulla Costituzione, la sua classe dirigente, i suoi valori, la sua cultura, i suoi giornali. Ma mi scusi, che senso ha? No, aspetti, senso ha celebrare questa data che va celebrata per tutte le ragioni che lei ha detto e indignarsi poco, diciamo, poco per le parole di Ahmadinejad ieri a Ginevra. Certo, cioè, di fronte al fatto che si nega l'Olocausto, eccetera, eccetera. Mi sembra, diciamo, e su quello invece si ha un atteggiamento, si applaude Obama quando si riapre all'Iran e così via, cioè di fronte a una persona, diciamo, che dice delle cose. Beh, quello magari è diverso perché Obama, vabbè, quella è una questione di strategia politico-diplomatica, adesso poi vedremo, magari Obama finirà nelle braccia di Ahmadinejad, però per adesso ha solo fatto un'apertura diplomatica, però sulla cosa di Ahmadinejad lei ha ragione. L'altra cosa però, e sentirei su questo anche Sansonetti, è questa, ma il 25 aprile è sempre stato celebrato come una vera festa di unità, c'era disciplina politica quando esisteva il PC nella Prima Repubblica intorno al 25 aprile, non si fischiava il capo moderato che veniva a parlare, non è che Paolo Emilio Taviani veniva cacciato dalle piazze perché era democristiano, perché era stato ministro dell'interno, perché era considerato addirittura dai settori estremistici della fine degli anni 60, primi 70, come un amico degli americani e degli imperialisti e dei golpisti. Cioè il 25 aprile era una manifestazione disciplinata, vera, formale, di adesione ai valori della Costituzione repubblicana nata dalla liberazione. Ma il racconto di Panza, Sansonetti, su Milano rende pazzotica la richiesta che Franceschini ha fatto a Berlusconi. Cioè lui fa il racconto di due 25 aprile milanesi, quello del 2005 e quello del 2006, tutti e due connotati, anche per responsabilità di Rifondazione, del PDC, della sinistra cosiddetta radicale o almeno delle loro truppe, connotati da una forte e violenta rabbia faziosa. Allora perché invitare Berlusconi? Come fai a invitare il Presidente del Consiglio, il capo, diciamo, di un partito moderato nel momento in cui quando arrivano poi vengono fischiati, a volte anche più che fischiati. Beh, ci sono varie tante questioni diverse. La prima, che è molto interessante, secondo me, è il racconto di cosa succedeva tanti anni fa, quando c'era il PC, il 25 aprile era una festa ordinata. Badi che secondo me questo è uno dei punti fondamentali della discussione, e lo dico subito dopo. Io, che però notoriamente diciamo sono un estremista di sinistra, un personaggio del quale stare lontano, però penso stare vicini, insomma con attenzione, diciamo, stare vicini con attenzione. Sono di quelli che pensano che il 25 aprile è ancora una data importante, che il valore dell'antifascismo è ancora un valore molto forte, ed è un valore però in assoluta, assolutamente in evoluzione, non può essere lo stesso valore che era 30 anni fa, quando stavamo, no, manifestavamo con il PC, con la Democrazia Cristiana, c'erano tanti partigiani vivi, parlava Pertini, parlava Ferruccio Parri, parlavano quelli che hanno fatto vita. No, è un'altra cosa. Il valore dell'antifascismo è fondamentalmente il rappresentante di alcuni valori comuni che sono fondamentalmente poi i valori della libertà, la lotta alla dittatura, eccetera, eccetera. Io credo che il 25 aprile debba essere una festa unitaria, e tanto lo credo che, pur essendo un pericoloso estremista, come ha appena detto lei, sto per fare un nuovo giornale che uscirà il 1 maggio, e nel numero zero di questo giornale ho chiesto di commemorare il 25 aprile a Fausto Bertinotti e a Gianfranco Fini. Quindi diciamo è chiaro che penso che debba essere un valore condiviso, che hanno scritto due bellissimi articoli. No, non sono due compagni, ma sono i rappresentanti molto importanti della sinistra e della destra, che hanno scritto due articoli molto belli, secondo me molto interessanti e profondi sul 25 aprile, nel quale affrontano da posizioni naturalmente diverse, perché non si può chiedere a Bertinotti a fine di avere la stessa idea di quella festa, però da posizioni che raccolgono il nucleo centrale della questione, che poi è quello, che poi è quello della libertà. Quindi Berlusconi, l'altro però, sarà in edicola il 25 aprile con questo articolo di il 25 fine. Aprile sarà distribuito. Sarà distribuito fra l'altro nella piazza di Milano, quindi io porto Fini, diciamo. Ah, quindi Fini con, a Milano c'è comunque. C'è con, nel foglio del mio giornale. Vogliamo... Poi dal 1 maggio sarà. Però posso introdurre questo elemento rapidissimamente. Berlusconi, la questione credo che riguardi anche lui, proprio per quello che lei diceva prima, la questione del PC. Perché c'è una difficoltà di Berlusconi rispetto al 25 aprile? Forse perché è un antifascista, no? Berlusconi è antifascista, è liberale, quindi non c'è nessun problema, no? Qual è il problema? Che nella Resistenza ha avuto un ruolo fondamentale e positivo, pur in tutte le sue sbagli, poi eccetera eccetera, il PC. Per cui una politica che vuole continuamente, nella sua parte propagandistica, non nella sua parte più concreta, costruirsi sulla retorica anticomunista, non va molto d'accordo con il 25 aprile. Secondo me questa è una difficoltà che Berlusconi deve rimuovere, perché siccome, come lei ha detto, la Prima Repubblica si è chiusa, quel tipo di anticomunismo non è più smerciabile. Può essere che lei non abbia torto. Alessandro Campi, lei è uno degli intellettuali che costruiscono, diciamo, la linea culturale di Gianfranco Fini oggi. Cosa pensa di tutto questo? Ma guardi, io non condivido il giudizio che è stato appena dato sul 25 aprile come una festa che in passato è stata unitaria e disciplinata, perché in realtà poi, per tutti i decenni precedenti, questa è stata sempre una data molto molto controversa. Per un lunghissimo periodo sono festeggiati due diversi 25 aprili, cioè c'era quello della piazza milanese, ma poi c'era quello istituzionale romano. Diciamo, negli anni 70, a un certo punto, il 25 aprile è stato utilizzato contro lo stesso PC dalla sinistra estremista, nel segno della nuova Resistenza, per cui diciamo, è stata una data sempre controversa, nella quale un pezzo di paese non si è mai riconosciuto, è una cosa che si dice malvolentieri, ma è la pura e semplice realtà. C'è un pezzo d'Italia che non l'ha mai sentito come una festa autenticamente nazionale, per cui diciamo, le difficoltà di oggi in realtà sono le difficoltà del passato, insomma, non è stata mai una data intorno alla quale ci si è veramente riconosciuti tutti. Il problema è che, come diceva Sansonetti, i valori politici evolvono, per cui adesso, a distanza di più di 60 anni, si può immaginare che questa data, che è sempre stata controversa, cambiando magari anche di significato politico, venendo un po' spoliticizzata, resa meno strumentale rispetto al passato, possa diventare, come dire, la grande festa della libertà e della democrazia, nella quale ragionevolmente le istituzioni e un pezzo importante di paese si possono riconoscere. Questo però significa e presuppone che appunto chi fino adesso l'ha utilizzata, specialmente negli ultimi 15 anni, come appunto una festa di parte, no? Era l'opposizione che scendeva in piazza contro Berlusconi, fondamentalmente questo è accaduto negli ultimi anni. Accetti non soltanto di fare degli appelli unitari, ma accetti appunto di spoliticizzare questa manifestazione e di non utilizzarla in una chiave soltanto polemica, propagandistica, retorica. Spoliticizzare il 25 aprile non è una cosa facilissima, anche soltanto la formula ha in sé qualcosa di intimamente contraddittorio, perché una data, una festa nazionale intorno a problemi che nascono, diciamo, dal ricordo di una guerra civile, di una lunga, dolorosa guerra civile, insomma, spoliticizzarla è un po' difficile. Bisognerebbe trovare l'elemento politico di coesione più che spoliticizzarla, secondo me, Campi, no? Ma guardi, faccio un esempio per capirci. La data del 4 novembre nasce come ricordo di una vittoria militare, no? Poi insomma si trasforma e diventa la festa delle forze armate e strada facendo cambia ancora di significato. Oggi festeggiamo le forze armate con uno spirito diverso rispetto a 15-20 anni fa. Allora, spoliticizzare vuol dire essenzialmente questo, insomma, no? Capire che i valori politici si evolvono, le comunità politiche maturano, ma certe della cosa che vanno sì, ricomposte, ma della cosa che implicitamente suggeriva prima Pierluigi Battista, cioè il vero senso politico di un 25 aprile oggi sarebbe quello di dire che ha fatto bene il governo a non andare alla conferenza di Ginevra sul razzismo, in cui Ahmadinejad ha detto che Israele è uno stato razzista. Lei di questo per esempio cosa pensa? Cioè, Ahmadinejad nega l'olocausto, è uno come il vescovo lì, come si chiama? Spoliticizzare può anche voler dire dargli anche un significato politico diverso, invece che appunto voler, come dire, riportare continuamente indietro l'orologio della storia. Ancora in questi giorni è corsa nel dibattito la parola pacificazione. Allora, la parola pacificazione è un termine che rimanda al dopoguerra, no? Sono passati più di 60 anni dalla fine del conflitto. Lei dice non ha senso neanche, sì, certo. Diciamo, certo. Le sfide politiche dell'oggi sono completamente diverse. Allora, la festa del 25 aprile dovrebbe acquisire un significato diverso e su quella base potrebbe forse diventare un momento davvero unitario. 800 24 00 24, il 25 aprile che divide o unisce. Isabella da Parma. Isabella. Sì, buongiorno e grazie. Io volevo portare due piani di riflessione. Uno, il valore simbolico di questa festa, che lo porta al di là della destra, della sinistra, ma il significato di ragionare nei confronti di una nazione che aveva una dittatura, questa dittatura è stata combattuta, c'è chi è morto per questa libertà, eccetera, eccetera. Quindi ragionare sui valori sottesi, perché i simboli io credo che siano molto importanti, soprattutto nella nostra società. E dall'altra, un altro tema secondo me è che poi alla fine sembrano stentore queste date, perché soprattutto le nuove generazioni nulla sanno di quello che è accaduto. Io stessa sono arrivata a studiare, eppure ho fatto degli studi abbastanza così rigorosi, fino a forse il fascismo, se ci sono arrivata, ma la seconda guerra mondiale non si studia mai, nemmeno nelle sue vicende che ci sono appunto più vicine. Quindi riflettere su questo. Io ieri ho visto un bellissimo, lo guardo sempre quando posso, Atlantide sulla 7, che parlava appunto dello sbarco in Sicilia, e per me erano tutte cose nuove, e invece io penso che per capire, farsi anche un'opinione, al di là della posizione politica, sia importante conoscere le cose e tranquillamente riflettere sul significato dei comportamenti, di quello che è accaduto, inserendoli in un contesto storico. Grazie. Grazie a lei. Ennio da Napoli. Buongiorno dottor Ferrara. Buongiorno. La ricordo con tanto affetto. Grazie. A 8:30. Grazie. Senta, le volevo dire, io non mi sono mai lasciato contaminare dalla politica e particolarmente da quella italiana. Mi sono sempre lasciato contaminare dalla storia. Voglio dire, noi siamo stati liberati dagli americani. Voglio dire che noi italiani abbiamo il dovere di ricordare, per non farla lunga, tutti i martiri della nostra storia, dalla guerra d'indipendenza fino all'ultima guerra mondiale. Allora, se vogliamo ricordare i nostri martiri, mettiamo al centro, all'attenzione, la festa del 25 maggio, ricordando cioè la guerra più penosa, più la terribile. Fine della guerra invece che la data della liberazione nazionale. Sì, ho capito, grazie. E effettivamente Napoli, diciamo, a parte alcuni grandi ed eroici episodi di guerra di strada, fu fuori dalla corrente importante che era il vento del nord, insomma, del centro-nord, della resistenza, della guerra di liberazione. Stefano dalla provincia di Milano. Grazie dottor Ferrara per darmi l'occasione di darmi la mia opinione. Volevo dire, forse è stata un po' provocatoria la sua domanda, in nome di che cosa, dice, noi festeggiamo il 25 aprile. Io quello che volevo dire, io praticamente l'hanno già detto i radioascoltatori prima, cioè in nome dei morti che ci sono stati, perché io sono nato nel 1959, ho avuto un nonno e uno zio uccisi per mano dei nazisti, per me è molto importante questa data, lei capisce, mi tocca a me profondamente nell'animo, cioè certo. questa data. Capisco perfettamente. Ho avuto due lutti in famiglia, capisce? Capisco perfettamente. È arrivato ai microfoni Gianluigi Paragone, vice direttore di Libero, che ha una posizione un po' diversa da quella degli altri ospiti, poi torniamo a Pierluigi Battista. Prego Paragone. Beh, intanto buongiorno. Buongiorno. No, io di solito dico che rivendico il diritto a non partecipare mai ai dibattiti sul 25 aprile e voi volete farmelo violare. Nel senso che il valore simbolico di questa data e di questa pagina è talmente alto che secondo me ogni anno presentarsi a dover dire le solite cose diventa ormai simbolico il dibattito, non il momento o il valore e l'importanza in sé. E invece siamo qua perché magari c'è una dichiarazione, siamo qua appesi spesso alle dichiarazioni oggi di Franceschini che invita Berlusconi ad andare alla festa del 25 aprile, come se la titolarità di questa manifestazione, di una piazza importante come Milano, dipendano da Franceschini, dalla sinistra. Lei vive a Milano, ci va le manifestazioni del 25 aprile in genere? Io no. Io non vivo a Milano, vivo a Varese, ma non importa, non va. Non sono andato, pur condividendo, ripeto, il valore alto e simbolico di cui la radioascoltatrice. Ma cos'è che le dà fastidio? Il carattere, diciamo, il pericolo di strumentalizzazione politica faziosa, il fatto che questa manifestazione originariamente istituzionale dell'AMPI, dei partigiani, in nome dell'unità di tutti, poi è diventata una manifestazione spesso politicizzata, con le bandiere bruciate, è questo? Prima Ferrara faceva riferimento al vento del nord, e il vento del nord ha registrato le resistenze, diverse resistenze. Io sono molto legato ad un libro di Sandro Fontana, che è La grande menzogna, sì, in cui si rende conto benissimo di quelle che furono le resistenze, la resistenza bianca, spesso taciuta e soltanto certo, adesso finalmente un po' emersa. Sì, ci fu una resistenza monarchica, ci fu una resistenza, certo, mica c'era solo la resistenza comunista, la resistenza di GL, Giustizia e Libertà. Tante resistenze. Però insomma erano tutti nel Comitato di Liberazione Nazionale. Sì, ma mi dà fastidio che una parte si arroghi il diritto di fare quasi da casellante, di consegnare il biglietto di entrata a Berlusconi oppure il biglietto d'uscita a Panza, che ne so. Ma da questo punto di vista chiedo a Pierluigi Battista, che è anche, diciamo, uno storico professionale oltre che un giornalista, la faccenda storica su cosa è stata la resistenza a che punto sta? Perché a un certo punto uscì questo famoso libro di Claudio Pavone, Una guerra civile, e fu un elemento di rottura, insomma, dopo gli studi De Feliciani, De Felice e dei suoi allievi, dopo i tentativi del cosiddetto revisionismo storico, arrivò questo scritto, questo racconto della resistenza, così, di timbro nuovo, che arrivava dall'interno di una cultura resistenziale, che diceva: guardate che la resistenza, insomma, è stata una cosa dolorosa, sofferta, tormentata, non solo un'epopea che si può retoricamente, diciamo, costruire come un abito politico istituzionale, come una bandiera sgargiante, in modo, come dire, indolore per tutti. Sì, tra l'altro venne scritto poco prima della fine della Prima Repubblica e fece molto scalpore nella sinistra italiana perché, come si dice, sdoganò un termine, guerra civile, che tra l'altro provocò discussioni laceranti anche allora, guerra civile, che peraltro era già ampiamente usata nella pubblicistica, nella storiografia non di sinistra, quindi non è che inventò quel termine, ma disse che sostanzialmente la cosa era giusta. Io però devo dire che la rappresentazione che lei e anche Sansonetti avete dato di manifestazioni ordinate non è sempre stata così, il 25 aprile. Ci sono degli studi di Roberto Pertici e di Giovanni Lardelli che raccontano proprio racconta l'andamento delle celebrazioni del 25 aprile, che non sempre sono state molto unitarie. Dopo il 18 aprile 48 si ruppe anche la celebrazione unitaria, i democristiani restarono fuori perché, avendo vinto le elezioni, avendo rotto il fronte antifascista poco prima, veniva identificato come il pericolo di un nuovo fascismo. Poi celebrazioni che diventarono sempre più retoriche, ripresero fiato dopo il 60, dopo i fatti del luglio 60, si rinabissarono nuovamente negli anni 70. Venne scoperto, appunto, come diceva Campi, anche un valore polemico tra la sinistra extraparlamentare e il PC, e poi per tanti anni non se n'è quasi parlato, finché questo è il punto, il 25 aprile come data controversa è venuto fuori nel 94, quando la sinistra organizzava una manifestazione a Milano dopo che Berlusconi aveva vinto le elezioni, e il significato, il sottinteso che c'era dietro quella manifestazione era: i fascisti o quelli che sono rimasti, sono nati fuori dalla cultura, dell'arco costituzionale e così via, sono andati al potere e noi dobbiamo fare una manifestazione di protesta. Questo è un po' quello che è accaduto. Il suo racconto è molto veritiero, fa bene. Sansonetti diceva: la verità è che il 25 aprile è un problema, è una data politicamente difficile per il Premier, per Berlusconi, perché bisogna fare una celebrazione insieme con i comunisti, il comunismo agitato da Berlusconi, un comunismo che non c'è più. Però per simmetria, se non si può essere più anticomunisti perché non c'è più il comunismo, anche essere antifascisti. Questa è una cosa che qualcuno un giorno me lo dovrà spiegare: com'è possibile che l'anticomunismo senza comunismo è ridicolo e l'antifascismo senza fascismo invece è un dovere della memoria? Questo è francamente non riesco proprio a capirne la logica. Vediamo se Sansonetti ha qualcosa da dire. Scusa. Io invece la capisco la logica, perché l'antifascismo oggi non divide nessuno, mi pare. Così mi pare di capire, e questo è cambiata moltissimo la storia, è cambiata moltissimo negli ultimi vent'anni, fondamentalmente negli ultimi vent'anni, ma badate, non è solo la caduta della Prima Repubblica, come diceva prima lei Giuliano Ferrara, che ha cambiato le cose. Vent'anni fa nel Parlamento italiano, quasi la metà del Parlamento italiano rivendicava o il fascismo o difendeva il regime sovietico, è vero o no? Se noi facciamo i conti del Parlamento italiano prima dell'89, così erano le cose. La metà della politica italiana non è che si riconosceva così facilmente in alcuni grandi valori di libertà e di democrazia come oggi. Perché io dico, oggi l'antifascismo esiste se è quella roba lì, cioè se è il riconoscimento di alcune questioni che esistono chiaramente oggi, ma che è molto più facile affrontare nel momento in cui è stata rimossa la dichiarazione di difesa delle dittature che c'era precedentemente. L'anticomunismo è tutt'altra storia, è perché non è che io vado in televisione e dico basta coi fascisti, certo se io andassi in televisione tutti i giorni a dire basta coi fascisti al governo, allora avrebbe ragione Pierluigi Battista, ma non è così. No, anzi lei pubblica articoli. Non è così. Sì, e quindi scusa, Sansonetti, ma che cosa c'entra? Io sto parlando della difesa dei valori. Allora, se la difesa dei valori sono la libertà e la dittatura, si è antifascisti e anticomunisti, punto. È così semplice. No, non capisco perché. No, io posso. Io posso. Diciamo per la democrazia. Battista, non può essere anticomunista perché è antiviltroniano. Ma per un motivo elementare c'è una differenza. E c'è una. È perché in Italia, purtroppo, c'è stata la dittatura fascista. No. Che vuol dire? Noi certo, mica siamo la provincia del mondo. Infatti non credo che nei paesi che... Ma pensi questo discorso come sarebbe insensato, in Polonia, in Cecoslovacchia, appunto, dove la memoria è tutta diversa. Allora noi stiamo parlando dei valori universali, dei valori... Battista, stiamo parlando del 25 aprile, che è una data... o di Pavia. Battista, stiamo parlando di valori possiamo fare, no? Moltissime discussioni su questo, lo facciamo senz'altro. Adesso però stiamo parlando del 25 aprile, che è una data strettamente italiana. Il 25 aprile si festeggia solo in Italia perché è il giorno in cui ci fu la liberazione di Milano. Questa è la storia. Allora stiamo parlando di quello ed è ovvio. Perché nacque la democrazia. Perché nacque la democrazia? Il problema è esattamente questo. Alla nascita di quella democrazia partecipò anche un partito che si ispirava pure a modelli internazionali dove la democrazia non c'era, che era il Partito Comunista. Qui sta la contraddizione. Il Partito Comunista, che pure in quegli anni si riferiva all'Unione Sovietica, è stato decisivo nella lotta di resistenza. Qui sta la difficoltà. E naturalmente da due parti sta la difficoltà. Da una parte le sinistre, che ritengono che il 25 aprile sia solo loro, perché nella retorica pubblica, diciamo, poi è nata questa cosa che la resistenza era comunista. La resistenza però era anche comunista. E di lì c'è la difficoltà di una parte delle destre che non riesce a riconoscersi in una data in fondo così facile, perché è puramente una data liberale e libertaria, come è il 25 aprile. Questa difficoltà è anche di Berlusconi, che nel momento in cui invece nella sua propaganda politica tiene molto al valore dell'anticomunismo, si trova in difficoltà in questa situazione. La difficoltà è anche sua, non è solo della sinistra. Strade in diretta. Speculare. Ora, sono mitici anche quelli di Strade in diretta, mica solo Deborah Losciani, però non sappiamo mai chi è. Chi è che parla Strade in diretta? Voi lo sapete in regia, no? Sono anonimi, poverini. Vabbè. Allora, riprendiamo 800 24 00 24, riprendiamo e concludiamo questa trasmissione sul 25 aprile e sentiamo cosa ha da dirci Antonia da Roma a proposito di antifascismo e anticomunismo, che era l'ultimo lembo di discussione al quale ci siamo aggrappati. Antonia da Roma. Buongiorno a tutti. Buongiorno. In effetti io avevo anticipato qualcosa che poi ho sentito, però mi riallaccio e allargo un pochino il campo della discussione, perché come appunto non è più smerciabile l'anticomunismo vetero, anche l'antifascismo vetero, per esempio, io penso che ci dovrebbe essere una memoria condivisa non solo sul fascismo, ma su tutti i morti che ci sono stati in quel periodo e anche oltre. Per esempio, mio marito ha perso, quando era piccolissimo, dei parenti nelle foibe, e non solo per responsabilità slave, ma anche per sempre tacute per responsabilità italiane. Ecco, senza andare a chiedere chi sono i culacchi, perché non lo sa nessuno, e sono stati 10 milioni che Stalin si è vantato di aver ucciso, e nemmeno per pregiudizio razziale, ma proprio perché gli davano fastidio, se ne è vantato con Churchill. Allora io dico, tutti, anche tanti italiani di allora, che in buona fede, pur errando, pur sbagliando, si ritenevano fascisti e credevano di difendere lo Stato, sono andati anche a Salò e poi dopo sono diventati comunisti, spero tutti per convinto cambiamento dell'idea. Cioè, insomma, dovrebbe esserci una memoria condivisa di tutto quello che è successo. Ho capito, cioè lei dice la storia è molto ingarbugliata e complicata e bisognerebbe condividerne l'eredità. D'accordo. Stefano da Vicenza, che ha da dire una cosa a Sansonetti. Stefano. Sì, buongiorno. Io volevo collegarmi sostanzialmente alla signora che è appena intervenuta, ma anche a quanto detto da Sansonetti. Lui dice che oggi sostanzialmente nei valori dell'antifascismo ci si riconosce un po' tutti, mentre il comunismo c'è ancora chi lo professa. Io volevo dire che è vero sì che nell'antifascismo ci si riconosce, però spesso ci si dimentica delle migliorie, dei valori che ci ha insegnato anche il fascismo nella prima parte, che erano valori anche positivi, mentre quando si proclama il comunismo ci si dimentica, come ha detto la signora, tutte le barbarie che in qualche modo sono equiparabili a quelle commesse dal fascismo, ma che vengono dimenticate così. Sentiamo su questo, grazie Stefano. Sentiamo Paragone, che è giovane poi. Paragone, lei è antifascista? Assolutamente sì. Saprebbe definire il perché, il senso del suo antifascismo in tre parole? Ma intanto perché fortunatamente l'importanza sta in questo avverbio. Fortunatamente non ho vissuto sotto una dittatura, quindi sono vissuto e vivo in una democrazia. Quindi lo spirito di avversione alla dittatura, chi ti priva della libertà, chi scioglie i partiti politici, chi non convoca le elezioni, questo è il suo antifascismo fondamentale. Assolutamente sì. Lei è anticomunista? Per gli stessi Per gli stessi motivi, sì. Questo schema, diciamo, che non convince Sansonetti, ma invece convince alcuni nostri ascoltatori, ed è riproposto adesso da Paragone, è uno dei problemi sui quali si impiglia la celebrazione come memoria condivisa, si dice così oggi, del 25 aprile. Battista, secondo lei come andrà a finire? Facciamo un po' di previsioni. Guardi, perché c'è tutta questa lotteria su dove va Berlusconi. Ma questo è straordinario, comunque, perché il fenomeno berlusconiano, mito poietico, per cui adesso vedremo se ci sarà il Berlusconi dopo presidente, operaio, presidente partigiano, cioè che tutti siamo qui a aspettare un colpo di teatro, sì, per il 25 aprile. Io spero che lui non vada a Milano, questa è la mia il mio sincero auspicio, cioè che non, insomma, questa cosa faccia vedere che è veramente antifascista e venga con noi il 25 aprile. Io lo trovo un po' fastidioso, cioè ognuno lo celebra come crede, non c'è appunto un luogo deputato dove si rilasciano i certificati, tu sei un vero antifascista perché sei venuto con me alla manifestazione, tu invece lo sai, insomma ognuno lo celebra come crede, questo, ma non so, farà sicuramente, lo troveremo dove nessuno se lo aspetta, io ho l'impressione. Sì, anch'io devo dire, perché è un uomo se non altro di fantasia, questo non glielo disconosce nessuno. Sansonetti, l'ha convinta questa simmetria di Paragone e anche di alcuni ascoltatori che dicono vabbè, ma insomma di che stiamo a parlare? Il 25 aprile è una data antitotalitaria, o almeno come tale va interpretata, deve essere una manifestazione antifascista, ma che ha in sé un contenuto anche anticomunista. D'altra parte c'è stato un antifascismo anticomunista, Edgardo Sogno era un anticomunista, sì, sì. Voleva fare un golpe, se Dio vuole. Per fortuna non l'ha fatto. Ma insomma, per fortuna chi lo sa. Non mi convince questa, sì, per una serie di ragioni. La ragione fondamentale, che naturalmente è una ragione logica, non rimovibile, è che il 25 aprile era la data della vittoria naturalmente degli eserciti alleati, ma nel quale ebbe un ruolo politico molto forte, naturalmente militarmente invece molto più debole, sì, la resistenza italiana, e della resistenza italiana gli animatori furono i comunisti, e della lotta antifascista i comunisti furono animatori, quindi è molto difficile trasformare, sarebbe, diciamo, contraddittorio, insensato, anche poco gentile nei confronti della memoria, trasformare il 25 aprile in una festa anticomunista. Dopodiché mi convince la questione, non credo di essere meno contrario alla dittatura stalinista di quanto non lo siano l'ascoltatore che ha parlato o Paragone. Io capisco alcuni elementi di anticomunismo, insomma è un po' difficile usare questa parola per me, per la mia storia, per il mio, ma alcuni di questi elementi io li condivido pienamente. La differenza, credo, ma questa poi è una discussione molto più lunga, fra il fascismo e il comunismo è che il fascismo e il nazismo sono stati solo episodi di presa del potere e poi di esercizio violento e dittatoriale del potere. Nella storia del comunismo mondiale, che è una storia in parte orrenda, ci sono anche storie molto diverse, per esempio ci sono appunto grandi episodi di lotta di liberazione ci sono grandi lotte di liberazione, alcuni partiti comunisti hanno avuto storie molto diverse e questo rende molto difficile. Dopodiché, a contrario di Battista, io mi auguro che Silvio Berlusconi vada alla manifestazione di Milano, perché è suo diritto partecipare alla manifestazione di Milano, è suo diritto affermare il suo antifascismo, e se non ci va bene lo stesso. Luciano da Roma. Buongiorno, Lucia, a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma io volevo dire una cosa molto semplice. Io credo che esista uno squilibrio nell'attribuzione dei valori finché i partigiani riterranno, e chi li sostiene, insomma Sansonetti lo diceva adesso, riterranno che esistono due valori distinti, uno migliore e uno peggiore, alle due dittature che ci hanno rovinato la storia, non avremo mai la pacificazione. Non è un caso che la nostra Costituzione considera illegale il fascismo e non fa menzione del comunismo. Se qualcuno me lo spiega. Quindi lei dice c'è uno squilibrio in re, nella Costituzione stessa, nel modo in cui si è costituita la Repubblica. Noi siamo una Repubblica antifascista, ma l'anticomunismo non è un valore. Battista, questa è una bella provocazione politico-ideologica. Io speravo che lei mi facesse la stessa domanda che ha fatto a Paragone. Gliela faccio. Si considera antifascista? No. Nel senso che io sono semplicemente democratico antitotalitario, sì. Mi sembra, allora, l'antifascismo e l'anticomunismo, come dice Sansonetti, sono concetti ambigui, nel senso che nell'antifascismo si comprende un'alleanza storica, che poi non fu solo in Italia, ma fu anche l'alleanza tra Stalin e le democrazie occidentali e così via. Eternizzare quell'alleanza che fu un momento molto particolare, che poi invece si ruppe subito dopo la guerra fredda, eccetera. No, eccetera. Eternizzare no, però quell'alleanza diciamo generò delle energie. Sì. Ci fu chi credette però, in quell'alleanza e si batté con valore e morì. Cioè, però posso dire che in quell'alleanza io sto con Churchill e con De Gaulle e contro Stalin. Quindi diciamo il fatto che Stalin abbia partecipato alla seconda guerra mondiale dalla parte giusta non può essere considerato un motivo per essere più indulgenti nella considerazione storica su Stalin. Quindi l'antifascismo comprende forze diverse che contro il fascismo si sono battute e che non tutte erano democratiche, questo è il punto. Essere democratici e antitotalitari, cioè combattere contro ogni forma di totalitarismo, mi sembra una cosa accettabile. E il resto invece è tutto carico di ideologia. Va bene, anche questa è una versione delle cose, anche questa è una diagnosi. Se ne discuterà ancora a lungo, tanti quanti saranno i prossimi 25 aprile. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini, Filippo Oreggi. Ringrazio tutti, Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere, Sansonetti che sta per pubblicare un nuovo quotidiano, l'altro, Alessandro Campi che ci aveva lasciato, e Gianluigi Paragone. Grazie a tutti, linea al GR, speciale terremoti, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie, a domani.